Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Durante il percorso Bologna-Francoforte, Francoforte-Bangkok, Bangkok-Koh Samui e poi in catamarano per Koh Phangan, mi sono domandato più volte: ma chi me l'ha fatto fare? Ma tutti i miei dubbi sono svaniti una volta arrivato. Mi chiamo Roberto, abito a Modena, sono export area manager per un'azienda ceramica, quindi giro tutto il mondo. Oltre ai miei hobby sportivi, che sono il tennis e il calcio, ho la passione per le tecniche olistiche. Infatti sto frequentando una scuola a Bologna di Maurizio Mioli per diventare operatore olistico. Il termine olistico, dal greco olon, cioè tutto, di per sé non ha un significato specifico, ma lo si usa per identificare un insieme di discipline che operano allo scopo di sostenere, mantenere e migliorare lo stato di salute della persona attraverso specifiche modifiche metodiche volte a stimolare e rinforzare le naturali risorse della persona. Buongiorno a tutti, questa è Radio 24. Oggi è un bel venerdì, anche se non è un bel venerdì, di solito lo è perché è la fine della settimana. Sono le 16:09 in punto. Noi siamo come sempre in diretta qui dagli studi di Radio 24 nella splendida serra disegnata da Renzo Piano qui in via Monterosa 91 a Milano, come vi dicevo, e raccontiamo storie come facciamo tutti i giorni alle 16 in punto, una storia al giorno, una persona diversa al giorno e quindi un pezzo di vita di quella persona. Oggi la persona che ha voluto raccontare un pezzo della sua vita si chiama Roberto, lo avete sentito un attimo fa parlare. Lui racconta di un viaggio che in realtà è un viaggio per apprendere qualcosa e per farlo entrare nella propria vita, e lui lo spiegherà meglio di tutti. Oggi però in generale parliamo di questa cosa qua. Sapete che si dice che spesso sono molto fortunate le persone che riescono a far diventare un mestiere la loro passione. Non so, uno piace giocare a calcio e diventa un calciatore. Ne dico la prima che viene in mente perché c'ho qui davanti una TV accesa e si vede uno che gioca a pallone. Ma se uno ad esempio scopre che c'è un'attività del tempo libero che non è per forza una grande passione, cioè non è la passione della vita per cui mi strapperei le vesti pur di farla, ma è un'attività del tempo libero che ho cominciato a fare, che dopo qualche anno ho migliorato, ho perfezionato ed è diventato un mestiere. Oggi è la puntata per voi. 349-238-6666 è un numero per mandare sms, non per telefonare, per mandare sms. Altrimenti, se avete uno smartphone in mano, andate sul profilo Facebook del programma, che è Voi Siete Qui Radio 24, o su quello Twitter del programma, che è Voi Siete Qui R24, oppure semplicemente il mio, che è Matteo Caccia. Noi avevamo fatto una promessa qualche tempo fa, ce lo ribadiamo ogni volta in redazione, anche con Tiziano, visto che qualcuno aveva scritto: sentite, il venerdì, per piacere, facciamo delle storie leggere. Non so quale storia avessimo mandato un venerdì che aveva fatto un pochettino così rivoltare, aveva creato una rivolta nei confronti di quelli che volevano un venerdì un po' più leggero. Sta di fatto che stiamo cercando di farlo. Detto questo, noi vorremmo riuscire a poter raccontare qualsiasi storia in qualsiasi momento e quindi continueremo comunque a farlo, e voi continuate comunque a inviare una vostra storia che è un episodio della vostra vita. Voi siete qui @radio24.it. siamo ancora in tempo per ricevere, visto che stiamo quasi per chiudere quella convocazione, delle storie che hanno a che fare con l'alimentazione, con il cibo, con dei piatti particolari o con una cultura gastronomica o culinaria. Se avete una storia, mi raccomando che sia un episodio che riguardi tutto questo mondo, l'indirizzo è sempre quello: voi siete qui @radio24.it. se invece volete ascoltare come si fa a imparare una tecnica di massaggi nel caso di Roberto, come si fa a scoprire e a diventare quasi un maestro in quella roba lì, ascoltatevi la storia di Roberto. È il 5 agosto del 2013, sono in Grecia con la fidanzata per le vacanze estive. Al mio rientro avrei dovuto trovarmi con un amico per una settimana in una qualche località. Ancora oggi, a 39 anni, ho sempre cercato di fare una vacanza con gli amici e una con la fidanzata. Penso non ci sia niente di male, mi fa sentire più giovane e mi regala un senso di libertà. Quest'anno però il mio compagno di viaggio, Gabriele, non si decideva su dove andare. La no perché non ho il passaporto, la no perché è da coppie, la nemmeno ci sono solo mocciosi. Dopo avergli dato un ultimatum, decido di organizzarmi per i fatti miei e faccio la pazzia. Io ho sempre sognato di andare in Thailandia per imparare il massaggio Thai. Il lavoro che svolgo da anni non ha nulla a che vedere con il massaggio. Io giro per il mondo per affari, però ho frequentato molti corsi di altre tecniche olistiche e spero che un domani possa diventare la mia attività. E allora è deciso. Vado là. Mi collego ad internet e trovo la Siam Thai School su un'isola chiamata Koh Phangan. Vedo le foto del centro studi e degli alloggi. È il mio posto. Il 12 agosto parto. Durante il percorso Bologna-Francoforte, Francoforte-Bangkok, Bangkok-Koh Samui e poi catamarano per Koh Phangan, mi sono domandato più volte ma chi me l'ha fatto fare. Poi tutti i miei dubbi sono svaniti una volta arrivato. Come corsi tecniche olistiche ho fatto un corso anni fa di massaggio tradizionale e in Thailandia il massaggio thailandese. La scuola è in una location molto zen, balconata di legno in mezzo alle palme, insetti e volatili di ogni genere, caldo afoso, insomma, clima tropicale. Il corso è molto duro, soprattutto i primi 3 giorni. Alla sera riesco appena ad andare a mangiare qualcosa al mercato di Tong Sala, il villaggio principale dell'isola. Ma alla fine dei 6 giorni ricevo l'attestato di primo livello del metodo Wat Po e perdo 4 kg. Mi sento realizzato, per la prima volta avevo imparato quasi alla perfezione un trattamento di 1 ora e 15 minuti. Mi ero abituato alla vita di quel villaggio, tutti i giorni per una settimana facevo le stesse cose e frequentavo gli stessi posti. Una sera però ho quasi provato cosa vuol dire diventare una vittima accidentale. Mi trovavo al solito mercato quando ho sentito 2 spari dietro le mie spalle. Ho fatto appena in tempo a girarmi che ho visto un gruppetto di persone correre verso di me e un individuo a 10 metri di distanza che gli sparava. Ho contato i colpi sdraiato sotto una vettura parcheggiata e dopo il 6° si sono interrotti. Dopo un minuto tutti sono tornati alle loro bancarelle come se niente fosse, a vendere frutta o cibari locali. Il panico di prima si era presto trasformato in indifferenza. Era una specie di regolamento di conti tra gente lì del mercato che per poche, forse per un mancato pagamento di una postazione del mercato, si sa appunto di preciso per cosa, comunque per pochi spicci si sono uccisi. Il giorno seguente decido che è ora di dedicare i 4 giorni che mi rimangono a visitare un po' di cose. Visito il tempio buddista più antico del luogo e faccio un mini tour nella giungla per vedere da vicino elefanti e scimmie. Passo gli altri giorni in altre isole, quindi vago tra Koh Samui, Koh Tao e Koh Phangan. Vedo fondali, spiagge, posti unici. Il giorno della partenza sono stanco, la mia pelle e i miei vestiti hanno assorbito gli aromi locali e sono soddisfatto di tutte le esperienze fatte. Da quando sono tornato a casa, tutte le sere faccio massaggi in una palestra. Mi fa stare bene e sono convinto di fare stare bene anche gli altri. E mi sono iscritto alla scuola triennale per operatore olistico. Qualcosa è sicuramente cambiato. Sarà l'inizio di un nuovo stile di vita e magari di un nuovo lavoro. Di noi esistono delle persone con cui abbiamo una speciale affinità. E non conta tanto il vedersi o non vedersi, il fare mestieri diversi, avere figli oppure no. Con certe persone semplicemente te la intendi, è chiusa lì. Ecco, Silvia per me è una di queste persone. Appena finita la maturità, lei sapeva benissimo che cosa fare. È partita da Verona per Milano. Ha superato la selezione alla Paolo Grassi, la scuola di teatro, e si è cercata un lavoro in un locale per pagarsi l'alloggio. Quando ha finito la scuola, ha cominciato a lavorare in teatro. È bella, è brava, è molto determinata e ha cominciato a lavorare di più e meglio degli altri. Cercava la sua realizzazione facendo teatro. Quella era la sua strada e non erano previste deviazioni o rallentamenti. Silvia era una che non lasciava domande senza risposta, non rimandava a domani quello che poteva fare oggi. Era capace di stare senza parlare per un giorno intero, senza pensare che fosse strano. Anche per questo mi è sempre piaciuta. Nell'estate del 2000 ha preso armi e bagagli ed è volata per un mese in California a studiare le tecniche psicofisiche di Gurdjieff. Aveva conosciuto qualche mese prima a Milano alcuni membri della comunità e le era sembrata la scelta giusta per lei per fare una vacanza. Ora, non che io ne sappia molto, ma mi sembra di aver capito che le tecniche psicofisiche di Gurdjieff prevedono il raggiungimento di uno stato di consapevolezza superiore attraverso il lavoro su se stessi e nel confronto con gli altri. Insomma, l'evasione, per lei, era quella roba lì. Dopo qualche mese è tornata, ha chiesto un visto per gli Stati Uniti, è andata a Verona e ha detto a sua madre: «Vado a vivere in California». Ha iniziato una nuova vita, lontana e sconosciuta, molto diversa da quella che si stava costruendo qua. Io non ho mai capito esattamente che cosa facesse là e per quanto glielo chiedessi tutte le volte che ci sentivamo, lei dava sempre risposte evasive. «Facciamo un percorso», mi scriveva, oppure «qua la natura è bellissima». Sembrava felice della scelta che aveva fatto. Lei stessa in questo era chiara, mi diceva che non si sarebbe mai aspettata di mettere in discussione la sua vita, eppure era successo e non si era tirata indietro. Aveva messo da parte programmi e carriera per vivere a contatto con la natura e con paesaggi umani, diceva lei. Io all'inizio dovevo farmi spiegare bene di che cosa parlasse, poi visto che non se ne veniva comunque a capo, ho rinunciato a capire. Di sicuro non mi sarei mai aspettato che Silvia rivoltasse tutto da un giorno all'altro e finisse a vivere in una delle prime comunità hippie del mondo. Dopo 7 anni ha deciso che il suo percorso là era finito. Si è trasferita in città, a San Francisco, e dopo altri 6 anni è tornata a vivere in Italia. È tornata a fare teatro, fa laboratori, insegna yoga e medita. Continua a parlare poco, a trapassarmi con lo sguardo, ed esercita lo stesso fascino su di me. Ma lei sostiene di essere cambiata e non c'è motivo per cui non le debba credere. È un matrimonio, direi, Roberto, nella foto che ci ha mandato, ed è una bella foto perché è una foto rubata che gli hanno scattato mentre lui non stava guardando. Alle sue spalle si vedono delle persone che sono vestite da matrimonio, gli uomini hanno quel, forse è lo sposo addirittura, che hanno il fiore all'occhiello nella giacca, o forse è un best man, un testimone, insomma, comunque il contesto è quello lì. È molto verde intorno a lui, quindi probabilmente è primavera o forse autunno. Lui ha i capelli corti un po' sparati in testa, è elegante ma al bottone della camicia sbottonato, e Roberto ha la faccia di uno che all'inizio può sembrarti antipatico, poi invece quando lo conosci diventa pure un amicone. Pronto Roberto? Pronto, ciao. Come stai? Bene, tutto a posto. Dove ti trovi? Mi trovo in montagna adesso, in un centro benessere. Diciamo che insomma la tua vita vista da qui sembra veramente una figata tra massaggi thailandesi. E tra l'altro sono andato a vedere e ho caricato sul profilo Facebook il sito del posto in cui sei stato, che, correggimi se è quello lì, Siam Healing Center, giusto? Sì, è quello lì, ok. E insomma, se avete voglia di andare a farci, passate dal nostro profilo Facebook, e voi siete qui Radio 24 e lo vedete, è un posto mica male. Mi spieghi esattamente che cosa ci hai fatto, cioè segui dei corsi lì in questo posto, giusto? Sì, sono andato a seguire un corso di massaggio thailandese tradizionale della scuola metodo Wat Po, che ha sede in Bangkok. Però io ho selezionato quel tipo di location perché mi sembrava più, diciamo, più zen, più adatta appunto. Sì, insomma, per farsi anche una vacanza in qualche modo. Perché dicevi che hai perso 4 kg? È molto faticoso fare il massaggio thailandese. Sì, è molto impegnativo e poi sì, vuoi un po' il caldo, vuoi un po' appunto la concentrazione. 6-7 ore al giorno di massaggio ti portano via molte energie. Che cos'è che ti piace nel fare massaggi? Ma il fare massaggi è uno scambio di energie. Cioè, se uno piace, diciamo che anche non solo il ricevente ne trae beneficio, ma anche chi lo fa. L'operatore. Invece mi spieghi, io prima, visto che tu lo annunciavi in apertura di programma, ho cercato la definizione di discipline olistiche, operatore olistico. Me lo spieghi, pane e salame, che cos'è la disciplina olistica e che cos'è un corso come quello che stai facendo? Allora, la disciplina olistica è, in pratica è, sono tutte quelle tecniche che vengono applicate sulla persona al fine di praticamente di attivare i processi di autoguarigione di disturbi mentali o fisici, cioè nel senso che in pratica aiutano non è una medicina, però ti può aiutare a stare meglio sia a livello mentale che fisico. Mi dici un paio di nomi dei corsi che segui, per capirci? Ma, come tecniche di massaggio oppure come nome di scuola? Cioè, a scuola, no? Ci sono dei corsi, delle lezioni particolari, che siano di massaggio o meno? La scuola è l'Istituto di Scienze Manuali di Bologna, di Maurizio Mioli. Okay. E come corso stiamo studiando quello che è il massaggio californiano, il massaggio tradizionale. Quindi comunque è legato al massaggio proprio, quella cosa che ti interessa è quella. È prettamente, sì, c'è il massaggio, però ci sono altre tipologie di studi, si studia anche un po' gli oli e altre cose. Tra l'altro, Roberto, ti farà piacere sapere che del tuo racconto che ci hai spedito, che ho raccontato, ognuno lo prende, prende il pezzo che preferisce, ed è appena arrivato un messaggio che dice: la figata è che la ragazza lo lascia andare in vacanza da solo. Non so chi l'abbia scritto, però lui andrà a casa o stasera dagli amici e dirà: ragazzi, ho sentito una storia oggi, cioè questo va in Thailandia da solo, la fidanzata. Come sta la tua fidanzata? Dici che sta bene, che vi volete bene, così sono tutti tranquilli. Sì, sì, sta benissimo, solo che lei ha la paura di volare. Ah, ok. Invece, veniamo un attimo a quello che fai, quello che forse tra un po' smetterai di fare, perché tu sei un export manager, giusto? Sì, io mi occupo della vendita di piastrelle in giro per il mondo. Lavoro in una ditta di Casalgrande. Mm-hmm. E quindi sì. Quindi grass porcellanato, quella roba lì, esatto. Alla grande. Esatto. Piastrelle per qualsiasi cosa, cucina, pavimento, esatto. Bagno. Qual è la piastrella che va di più in Italia? Ah no, in giro per il mondo tu mi dici, quindi. Qual è la piastrella che vendi di più? Quella che vendo di più, ma è, diciamo, è un 60x60 come dimensione, effetto cemento. Ecco, queste sono quelle che vanno di più adesso. Oppure anche l'effetto legno, l'imitazione del legno. Che vanno dove? Esterni o interni? Interno. Roberto, io ti ringrazio per la storia e per la chiacchiera. Quando smetterai di fare l'export manager e comincerai a farlo di mestiere, faccelo sapere. Va bene, fra molti anni. Fra molti anni, va bene, speriamo di essere ancora qua. Ciao, grazie ancora, buona giornata. Ciao, grazie. Abbiamo messo un po' di disciplina olistica, mi sembra di capire. Perché Paolino è così, Paolino Corleoni, tu lo vedi e dici, boh. E invece poi, al volo, sì, sta roba è un po' strong però. Allora però tienila fino alla fine. Astrofilo dall'età di 8 anni, 349-238-6666. Oggi, in anno sabbatico dal mio lavoro, che lavoro in banca, faccio il divulgatore scientifico e didattico astronomico nelle scuole. Bambini dai 3 anni in su, con un planetario itinerante. Enrico da Verona. Quel Tano mi scrive: io ho brevettato un castello di sporgenza registrato regolarmente, mi è costato 1.700 euro. Tano, io non so che cosa voglia dire tutto ciò, ma ti amo lo stesso. E chiudo in fretta, oh, perché non reggevo più questa roba in sottofondo. Io auguro un buon weekend a tutti quelli che stanno ascoltando. Ringrazio Paolino Corleone, Tiziano Bonini e Margherita Hina. Continuate a raccontare storie, fa bene a voi e fa bene a chi le ascolta. E scrivetele soprattutto e mandatecela. Voi siete qui, @radio24.it. Se non avete voglia di farlo, ascoltate il programma o scaricatevelo in podcast. Grazie ancora a Roberto, soprattutto perché la storia di oggi era la sua e anche lui è un punto rosso su una mappa.